Mix 24 di Giovanni Minoli. I'm with this complexion. Two steps. Complexion don't mean a thing. Su molti fronti aperti alle porte dell'Europa. 17:45, l'ora della guerra, parte il primo attacco contro la Libia. Jet francesi si alzano in volo e colpiscono obiettivi a Bengasi, distrutti 4 carri armati e abbattuto un aereo. L'azione militare russa in Siria si intensifica e favorisce una vasta offensiva di terra delle truppe di Damasco. Nel Mediterraneo, nel Medio Oriente, in Africa. È lì, secondo il capo dello Stato Sergio Mattarella, che il terrorismo, alimentato anche da fanatiche distorsioni della fede in Dio, sta cercando di introdurre i germi della terza guerra mondiale. La follia omicida, ribattezzata Intifada dei coltelli, ha portato l'ennesima giornata di sangue a Gerusalemme e in Cisgiordania. Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi, con crimini, massacri, distruzione. Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes. Ecco, non esistono più stati nazionali come l'Iraq, la Siria, la Libia, né torneranno ad esistere. Ecco, professor Caracciolo, ormai è saltato tutto, come dice Uzi Rabi, il direttore del Moshe Dayan Institute di Tel Aviv? Tutto no, ma molto sta saltando. In particolare in Medio Oriente di stati veri e propri esistono Israele, Iran, Turchia e in parte Arabia Saudita. Il resto sono tribù con bandiere. Ecco, lo scenario dipinto dal Papa, cioè quello di una terza guerra mondiale a boccone, diciamo così, si sta avverando? Si stanno avverando dei pezzi di guerra mondiale che però non formano di per sé una guerra mondiale. Ma il coinvolgimento della Russia in Siria per difendere Assad potrebbe innescare un confronto più ampio? Non credo, anzi, credo che l'intervento della Russia voglia delimitare lo scontro. Sarà possibile un accordo con gli americani sul destino di Assad? Ufficialmente no, sotto banco sì. Restiamo in Siria, dove di fatto c'è una zona sotto il controllo degli alawiti di Assad, difesa da russi e iraniani. Ecco, diventerà una piccola Siria quella per far uscire Assad dall'assedio? Diventerà una piccola Russia in cui Assad o comunque il suo regime potranno trovare protezione. E poi? E poi bisognerà trovare un accordo con le altre fazioni che si stanno spartendo la Siria, che come Stato non esiste e non esisterà mai più. Ecco, oggi c'è una terra dei Drusi ai confini con Israele, un Kurdistan e aree cristiane al nord, un'area in mano all'ISIS che si espande anche in Iraq, inglobando Mosul. Cosa ci dobbiamo aspettare lì? Quello che stava dicendo, cioè questa frantumazione? Ci dobbiamo aspettare la formazione di cantoni basati su logiche etniche e confessionali, più o meno nelle frontiere che esistono oggi. Ma perché in Medio Oriente stiamo assistendo alla proliferazione dei gruppi armati? Cioè, chi li finanzia? Li finanziano le potenze che hanno interessi nella regione, per esempio l'Arabia Saudita, per esempio l'Iran, per esempio la Turchia. Il problema è che sono interessi contrastanti, quindi questa storia può durare a lungo. Ma Putin avrebbe detto: portatemi al-Baghdadi vivo o morto a Mosca, ma se ci riesce è una vittoria? Credo che sia abbastanza intelligente Putin da non voler portare al-Baghdadi nemmeno morto. Ma il Cremlino intanto smentisce la notizia secondo la quale l'Arabia Saudita avrebbe offerto a Mosca 300 miliardi di dollari in cambio del ritiro del sostegno militare alle truppe di Assad. È una bufala, come dice il portavoce di Putin, lei crede? Credo proprio di sì, anche perché in questo momento persino i sauditi non riescono a mettere insieme 300 miliardi di dollari. Quindi è una bufala sicuramente. Direi proprio di sì. Senta, Obama ha vinto anche il premio Nobel. Alla fine ha prolungato la presenza militare in Afghanistan, dovrà impegnarsi di nuovo in Iraq e in Siria. Insomma, farà la guerra a suo malgrado? È stato un premio Nobel sulla fiducia, questa fiducia è stata ripagata in maniera molto parziale, come lei ha detto. Senta, un'ultima cosa. Molti analisti vedono un futuro in realtà con una guerra tra Cina e Stati Uniti. Lei che scenari ha fatto con Limes? No, questi sono analisti interessati, diciamo così. Parliamo del Pentagono e dintorni, che evidentemente devono creare questi scenari anche per ottenere i soldi per finanziare i loro progetti. Ma lei... non mi pare che ci sia questo scontro all'orizzonte. No. E lei che scenari ha fatto con la sua rivista, da questo punto di vista? Tutti gli scenari sono possibili, io credo, nel prossimo futuro, ma non una guerra tra Cina e Stati Uniti, che non è nell'interesse né dell'uno né dell'altro. Quindi, in fondo, per chiudere, lei vede una serie di guerre, guerricciole fra bande armate, ma non vede un pericolo di un'esplosione globale? No, per il momento spero proprio che non accada, ma non mi pare che accada. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. E allora adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Allora, abbiamo sentito Caracciolo, davvero stiamo già vivendo il periodo della Terza Guerra Mondiale? Questa è la domanda di oggi. Qualche giorno fa il settimanale francese Nouvel Observateur ha dedicato una copertina al tema. Ecco Mario, secondo te, come dice Caracciolo, siamo o non siamo vicini? No, non siamo vicini, o meglio non è che non siamo vicini, perché tutto può accadere anche molto rapidamente. E siamo nel campo dell'iperbole politica. Perché ho ricontrollato tutti i dati dell'Istituto di Studi Strategici di Londra, che è uno dei più autorevoli. E cosa dicono? Che nel 2008 c'erano 63 conflitti armati nel mondo, nel 2014 sono diventati 42, quindi sono di molto diminuiti. Ripeto, 63 contro 42, quindi il Papa si sbaglia, cioè una sotto previsione questo, pessimistica. Allora, sotto questo profilo il Papa si sbaglia sull'oggi e sul numero dei conflitti. Se guardiamo i morti, fate le debite, diciamo, proporzioni con quello che è accaduto in passato, la sua lettura potrebbe anche avere un senso, nel senso che nei 63 conflitti del 2008 vi furono 56.000 morti, nei 42 dell'anno scorso le vittime sono state 180.000, quindi vi è un aumento esponenziale. Vabbè, quindi meno guerre ma più morti, quindi meno guerre ma più morti. Teniamo presente solo una cosa, voglio precisare che nella Seconda Guerra Mondiale vi furono 70 milioni di morti, quindi beh, sì, certo. Dobbiamo sempre ricordarci del passato. Senti Pietrangelo, tu che sei un attentissimo osservatore del mondo del Medio Oriente, e là non c'è mai pace, lo vediamo in continuazione. Tu lo vedi il pericolo di una guerra, o la supremazia progressiva dell'Iran porterà in qualche modo nel suo rapporto con la Russia a una stabilità dell'area? Io vorrei intanto dire che il Papa ha ragione, però ha torto nella numerazione. Questa è la quarta guerra mondiale, c'è già stata la terza guerra mondiale ed è stata quella che noi chiamavamo guerra fredda. La guerra fredda. E c'è stata anche in un modo cruento, perché ha fatto conseguire la catastrofe di una sovranità potente e importante qual era l'Unione Sovietica. Quella guerra l'ha vinta un pontefice, Giovanni Paolo II. E accanto alla presenza di Giovanni Paolo II, un'altra guida spirituale ha determinato un profondo cambiamento nello scacchiere internazionale, che oggi si ripresenta nella forma totale. Tu dici Khomeini? Ed è l'Ayatollah Khomeini, con la rivoluzione iraniana. Ma quindi questo rapporto tra l'Iran e la Russia oggi può stabilizzare l'area? E quindi te? Appunto, per rispondere alla tua domanda, sì, può stabilizzare, o comunque presenta un elemento di forza nello scacchiere internazionale che contrasta quello che a tutti gli effetti è il caos. Perché la guerra che noi paghiamo è quella che consegue a un caos. Posso fare un'aggiunta? Sì. Non dimentichiamo Ronald Reagan. Beh, certo, in questo anche quadro, lui, naturalmente, importantissimo. Beh, anche la Thatcher, e Margaret Thatcher, esatto. Ecco, in giro ci sono, lo vediamo, però quello che abbiamo detto lo sottolinea, ci sono tanti dottor Stranamore, cioè il personaggio di Kubrick. Anzi, sentiamo cosa diceva il dottor Stranamore. Le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. A questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. Se, prima di allora, noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora, se, contrariamente, noi sferiamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano. Ecco, voi che siete in ascolto avete opinioni su questo tema che stiamo discutendo? 800240024, numero verde, 349-238-6666 per gli sms. Intanto Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Generale, lei ricorda, ha sentito Stranamore, ma oggi con i droni la guerra è diventata tecnica e statistica? La guerra con i droni è diventata qualcosa che c'era ancora una volta, perché ricordiamoci che gli inglesi sconfissero i francesi grazie al longbow, all'arco che lanciava da lontano le frecce. Quindi non si è inventato niente? No, è semplicemente uno sviluppo tecnologico. Ma la proliferazione delle armi sta favorendo i conflitti, generale Camporini? Questo è un discorso molto difficile. Io credo che purtroppo l'uomo abbia una sua aggressività che si estrinsecherebbe con qualsiasi tipo di strumento. Però cos'è che non funziona nel controllo degli armamenti che per finta tutti vorrebbero? Ci sono alcuni paesi che sono particolarmente disinvolti. Il nostro paese ha una legge circa l'export delle armi, la famosa 185, che è estremamente rigorosa e credo che sia un esempio per tutti. Ed è rispettata secondo lei? Sì. Ma io credo proprio di sì, anche perché le sanzioni sono particolarmente pesanti. Però in realtà non lo vuole nessuno questo controllo degli armamenti. O sbaglio? Diciamo che non lo si vuole, chi non lo vuole è colui che ragiona secondo il criterio per cui più armi si producono di un certo tipo, più basso è il costo unitario, e quindi essendo più basso il costo unitario diventa più conveniente. Sì, però generale Camporini, si continuano a vendere armi a soggetti che non dovrebbero averle. Beh, nel mondo questo accade, non c'è dubbio. Ma sul piano militare, il pericolo più grande, sul piano militare, il pericolo più grande che corriamo oggi qual è? Sul piano militare il pericolo più grande è quello di queste guerre ibride, di queste forme non convenzionali in cui uno dei contendenti, noi rispettiamo le regole delle leggi umanitarie che rendono un pochino meno bestiale la guerra, e altri non lo fanno. È una simmetria che ci vede in gravi difficoltà. Senta, ma le manovre NATO nel Mediterraneo di questi giorni sono un deterrente contro la Russia? Diciamo che sono un modo di dimostrare che la NATO è ancora una potenza militare, è ancora un qualche cosa che funziona, e questo è un messaggio diretto a tutti, Russia compresa. Ma sono un segnale di guerra o sono solo una prova muscolare? No, assolutamente, non penso che sia, anzi semmai sono un segnale che indica che determinate linee rosse non devono essere superate e quindi possono addirittura scongiurare. E possono essere la prova della missione in Libia? No, non credo, no. Non c'è nulla di... Ecco, qualche giorno fa si è avuta notizia di un traffico di uranio tra esponenti dell'ex Unione Sovietica e l'ISIS, lei lo ritiene credibile? Mi sembra molto fantasioso. Anche perché costruire un'arma nucleare non è qualcosa che si faccia nel garage di casa. Senta, Gheddafi è morto 3 anni fa, però la situazione in Libia è drammatica e la NATO in Libia ha fallito, si può dire? No, la NATO non ha fallito, anzi la NATO è riuscita nel suo intento. Peccato che coloro che avrebbero dovuto farsi carico delle conseguenze dell'intervento, in primis l'Unione Europea, siano stati completamente assenti. Vabbè, insomma, è un'azione militare senza il progetto politico successivo, diciamo così. Assolutamente, quello che purtroppo si è verificato regolarmente negli ultimi decenni e che è una sciagura da cui non riusciamo a uscire. Ma perché è una visione cieca degli americani della politica estera? È una visione cieca di tutto il mondo politico, che quando i politici non sanno cosa fare, dicono ai generali: fate quello che potete. I generali fanno quello che possono, non possono certo trovare soluzioni politiche. Senta, adesso in Siria la Russia invece per evitare di far fare Assad la fine di Gheddafi ha inviato bombardieri, carri armati e truppe speciali. È una strada? Se sia una strada giusta da percorrere non lo so. Certo che, come diceva Saint-Just, che chi fa le rivoluzioni a metà si scava la fossa, anche chi fa le guerre a metà si scava la fossa, e la coalizione dei volenterosi messa in piedi un anno fa sta facendo la guerra a metà in Siria. Ma lei crede che i russi e americani troveranno un accordo sulla Siria? Devono. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Su questo devono, diciamo, è abbastanza fondata la speranza di trovare un accordo. Molte reazioni alla, al nostro interrogativo, uno per tutte. Fabio da Marostica dice: no, però la terza guerra mondiale è già in corso, molti sono su questa linea. Ecco, che cosa c'è che non convince, Mario? C'è qualcosa che non ti convince, anzi, quello che ha detto il generale? Ma non mi convince il fatto che i generali fanno la guerra e poi la politica no, perché in realtà, insomma, Clausewitz diceva che la guerra è una continuazione della politica, quindi dovrebbero andare di pari passo. Quindi questa scissione, secondo me, non va bene. L'altra, non va bene, però c'è spessissimo. Sì, purtroppo c'è, ma è chiaro che no, è un errore colossale. L'altra cosa che secondo me trascuriamo tutti, un po' il dato culturale, che invece è enorme, cioè la forza del settarismo religioso, sunniti contro sciiti, islamisti contro cristiani, tribù contro tribù, tutto in base al credo, tra virgolette. È un dato che, secondo me, la cui sottovalutazione ci fa compiere degli errori. No, beh, molto sottovalutazione, grandi. Però insomma, tu dici che lo scontro di civiltà, allora è questa la cosa attuale. Beh, se noi rileggiamo, senza, non citandolo, ma leggendolo veramente, il testo di Samuel Huntington, no, lo scontro di civiltà, vediamo che molte cose, ahimè, si sono realizzate. Ecco, ma tu, Pietrangelo? Beh, io penso che lo scontro di civiltà è voluto perché intanto la natura umana presuppone sempre l'eterna volontà della guerra, della lotta, della sopraffazione. E citando l'amico di Mario, quello lì che dice che tutto è avidità, come si chiama? Gordon Gekko, il suo grande idolo, greed is good, l'avidità è buona. Quella specie di demone maligno. Ed è vero che comunque nasce sempre questo istinto di sopraffazione, sempre volontà di potenza a confronto. C'è da aggiungere che nell'attualità i buoni non necessariamente sono tali, così come i cattivi non necessariamente sono, insomma, bisogna tali. Conoscere meglio e più a fondo le cose. E perché comunque la più potente arma messa a disposizione nella scena di oggi, l'arma di distruzione di massa per eccellenza, è la menzogna. L'informazione. Facciamo fare questo rapporto. Ecco, però c'è anche un altro scontro di civiltà che parte da cose più piccole, meno significative, ma poi può andare a finire male. Potete chiedere alla mamma se per caso ha visto il mio amato cane Valentino? L'ho ammassato io, perché era da Lazio. Ecuador, Filippini, tanto è uguale, siete tutti forestieri. Voi sporcate e io pulisco. Se volete lavorare qua, vi dovete far piacere quello che piace a noi. L'Italia, l'Italia! In questo palazzo finché sarò vivo. L'ascensore è di tutti, caro mio. Io sono stata. È perché mi pisciava sempre nell'ascensore. Me lo riempiva di mozzicone di sigarette. E tu ti metti in mezzo, fatti che cazzi tu. Manfredini ti ricattava e tu l'hai fatto secco. Insomma, scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Insomma, è possibile anche che i conflitti nascano da piccole cose così, vero Pietrangelo? Certo, è l'unica benzina che funziona, il bar sport elevato a potenza di fuoco, di comunicazione, e il gioco è fatto. Tu Mario non sei d'accordo? No, sono d'accordo, ma sono anche, ti dico la verità, questa puntata quando la preparavamo sono molto preoccupato, perché il Papa oggi ha torto, anche secondo me in maniera proprio evidente. Però potrebbe avere ragione domani. Però a giudicare in effetti dal commercio mondiale di armi potrebbe andare così. Il SIPRI di Stoccolma ci dice che la spesa militare globale è di 1.776 miliardi di dollari. E i primi 5 paesi importatori: India, Arabia Saudita, Cina, Emirati Arabi e Pakistan. Un dato mostruoso, insomma. Sì, ecco perché per il Papa potrebbe, potrebbe avere ragione nel lungo periodo, forse anche breve, dipende, perché sai le scintille. Cioè la corsa agli armamenti appare inarrestabile, è una spesa pazzesca. L'Italia è uno dei principali produttori di armi, anche contemporaneamente però uno dei principali contributori delle missioni di pace dell'ONU. Senatore Giorgio Tonini, membro della segreteria del PD, lei è tra i fondatori dei Cristiano Sociali, che sono una presenza collettiva di cattolici nello schieramento, diciamo, progressista. Buongiorno. Buongiorno. Senta, senatore Tonini, ma il Papa dice che c'è la terza guerra mondiale in corso, lei è d'accordo? Beh, mi pare un'evidenza. Ah, lei è d'accordo, quindi. Assolutamente sì. Mm. Cioè, quando i morti si contano a centinaia di migliaia, perché in Siria stiamo parlando di centinaia di migliaia di morti, e milioni di profughi, di gente che deve scappare dalle sue case, per non parlare dell'Iraq, perché ormai è un'area unitaria, no? Quindi sì, l'abbiamo detto. Abbiamo... Noi nella prima guerra mondiale abbiamo perso 600.000 soldati, come è noto. Siamo su quelle cifre. Senta, ma in Siria alla fine noi armeremo i Tornado oppure no? Lei l'ha capito? È riuscito a capirlo? Noi no. Non lo so, no, non lo so ancora. La discussione è in corso, ma l'elemento secondo me evidente di questa terza guerra mondiale, come le prime due sono state definite guerre civili europee, questa è una guerra civile arabo-islamica, della quale noi siamo per la prima volta comprimari, non protagonisti assoluti, noi occidentali, voglio dire, cioè i protagonisti sono loro. Questo è l'elemento, a mio modo di vedere, che non sempre viene messo in evidenza. Anche i nostri errori, che sono tanti e di lunga, diciamo, dalle radici molto profonde, sono errori che non cambiano la sostanza della questione, che è una grande guerra civile all'interno del mondo arabo-islamico. Questo, il ministro Gentiloni dice che il Mediterraneo appunto è diventato un epicentro di disordine globale, ma non bisogna rassegnarsi, diciamo, a questo fatto, che da Mare Nostrum diventi Mare Nullius, cioè il mare di nessuno. Ecco, però cosa vuol dire questo poi nella concretezza della politica politicata? Nella concretezza vuol dire che è difficilissimo, come diceva prima, mi pare Secchi, capire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. No, forse butta fuoco. Sì, chi sono i buoni e chi sono i cattivi, perché le parti in commedia cambiano vorticosamente. C'è un grande conflitto, diciamo, quello più visibile è quello tra sunniti e sciiti, diciamo così. Sì, dentro certo. Il quale però poi si innesta uno scontro dentro la comunità sunnita e poi ovviamente la volontà di potenza degli stati e anche l'esplosione degli stati, perché per esempio Siria e Iraq sono stati costruiti, disegnati a tavolino dalle potenze europee dopo la prima guerra mondiale e oggi stanno letteralmente implodendo. Ecco, quindi... però lei Tonini pensa che sia indispensabile un accordo tra russi e americani per in qualche modo costruire un'uscita di Assad che non porti la Siria nella situazione che abbiamo visto in Libia? Io penso che quella è l'unica strada e lo è da sempre. Lo è da sempre? Senza la Russia è impossibile trovare una soluzione per la Siria, naturalmente una soluzione che non sia semplicemente il ripristino del regime di Assad, certo, che non sarebbe tollerato né dai siriani né dalle altre potenze sunnite, quindi il problema è un grande rompicapo. La condizione minima per poterci entrare con qualche speranza di successo è comunque un'intesa tra le grandi potenze, ecco, mondiali, Tonini, quindi a cominciare certo, dalle due più grandi. Ecco, lei è cristiano, il patriarca siro-cattolico Yunnan ha elogiato Putin e i suoi raid in Siria, lanciando proprio un appello all'Occidente e all'Europa che, a suo dire, parlo del patriarca, sono responsabili dei morti dell'ISIS perché non bombardano. L'Unione Europea di fatto non sa che fare, è immobile, ammesso che esista, perché non esistendo una politica estera dell'Europa, l'Europa fa fatica a decidere qualcosa. È così? Beh, diciamo due cose. È chiaro, per quanto riguarda l'Europa è evidente, l'Europa sta cercando di costruire, ma il tempo è lungo, una sua politica estera comune, la cui premessa dovrebbe essere almeno quella di mettere in comune le forze armate, perché oggi noi abbiamo 28 eserciti che sono tutti ridicoli, compreso quello inglese e quello francese, che non sono più eserciti da grande potenza con il diritto di veto dell'ONU. Senza l'infrastruttura americana non sono in grado di muoversi. Ecco, ma in tutto questo però il PD che fa? Perché sembra, per esempio, adesso ha deciso di continuare la sua missione in Afghanistan perché gliel'ha chiesto Obama, d'accordo, ma per fare cosa? il PD si muove sul crinale difficile, molto complicato, che bisogna conciliare l'articolo 11 della Costituzione con la volontà di avere un ruolo nel Mediterraneo. Nell'articolo 11 c'è anche la devoluzione di sovranità alle organizzazioni internazionali, certo, quelle di certo. cui facciamo parte, quindi sì. la NATO per un verso, le Nazioni Unite per altro verso, quindi noi ci muoviamo sulle tre scacchieri, uno è il rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa e l'ONU, queste sono le tre leve che vanno azionate, dentro le quali l'Italia cerca di svolgere un ruolo attivo. Senta Tonini, ancora una cosa, senta questo elenco: Somalia, Libano, Iraq, Ruanda, Albania, Macedonia, Timor Est, Bosnia, Erzegovina, Kosovo, Afghanistan, Libia, Libano, Iraq, sono le nostre missioni militari all'estero dagli anni 80 a oggi, ma non sono un po' troppe? Cioè quante sono strategiche per noi? A cosa ci servono? Beh, diciamo, alcune sono state fondamentali, pensiamo ai Balcani. I Balcani sono un'esperienza di successo, ancora non compiuta naturalmente. Mi ha fatto un bel elenco, non parlando solo dei Balcani, ce ne sono tante altre. Lo so, ho capito. Quella del Libano pure è una grande esperienza di successo. Ma quindi dice che vanno bene queste qua, sono strategiche. Io dico che vanno bene, poi ovviamente vanno riviste periodicamente, c'è sempre una però è uno dei tratti fondamentali della nostra politica estera apprezzati nel mondo. Va bene. La nostra professionalità nel peacekeeping, i nostri carabinieri, e non è una barzelletta, è una cosa serissima, i nostri carabinieri sono tra le forze più apprezzate nel mondo, perché sono soldati e poliziotti insieme, quindi il peacekeeping lo sanno fare come quasi nessuno nel mondo. Grazie onorevole Tonini. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms. Ecco, per chiudere una battuta, Mario, se avesse ragione il Papa, allora moriremo tutti e sarebbe come questa canzone di De André. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Mix 24. Molte reazioni, molti sms su questa discussione sulla terza guerra mondiale. Stefano da Roma, per esempio, dice: fino alle prossime elezioni americane non cambierà la linea dell'Occidente. Poi c'è chi dice invece che i russi e gli americani troveranno un accordo perché il prezzo del petrolio non può restare così basso e salterà il regime saudita, anche se è stato alleato per molti anni degli Stati Uniti. La guerra mondiale, guerra economica, dice Massimiliano da Udine. Grazie Putin, molti a favore del ruolo stabilizzatore di Putin, Michele da Bergamo, eccetera. Insomma, una grande discussione. Naturalmente noi, quest'anno l'avete notato, siamo molto orientati alla discussione e a seguire l'evoluzione della politica estera. E intanto Pietrangelo ci offre la sua canzone. می خواهدت روز بابا باز دلم می خواهدت می گویمت به Siamo andati oggi. E oggi ho ricevuto tantissime telefonate. Stamattina era un continuo squillare del telefono perché tutti volevano fare. Non mi telefona nessuno. No, ma telefonavano in redazione per le dediche, per scegliere la canzone da dedica. E mi sono poi reso conto che c'era un intero caravanserraglio arrivato da Gazim, dalla Via della Seta, e c'erano ragazze, ragazzi, vecchi dai baffi importanti, e poi donne cariche di bambini. E tutti, caro Giovanni, caro Mario, si sono presentati qui sotto, da dove trasmettiamo, da Piazza Indipendenza a Roma. Si sono formate le coppie e hanno ballato il valzer nell'esecuzione sublime dei Palette Band e hanno voluto fare una dedica. L'hanno dedicato questo valzer al giorno fatto. Pure il valzer. Molto apprezzato in regia questa. Sono tutti catalessi. Sì, sì. Mario, la tua bolla cattiva, oggi ne troviamo una? Sì, forse. Non lo so. Forse l'hai trovata? Vediamo. Fammi sentire Bill Conti. Sei diventato buono. Buonissimo. Giovanni, beh, insomma, però, una persona stamattina mi ha segnalato la voce.info che io non avevo visto. Poi l'ho guardato e ho detto: oh, perbacco, accidenti, per dindirindina. Fu fondata dal professor Boeri, che poi trovò posto, poltrona e trono alla presidenza dell'INPS. E vediamo che gli esperti del sito giudicano così la legge di stabilità di Matteo Renzi. Testuale. A leggere le tabelle della legge di stabilità, il taglio delle tasse sembra di 22,8 miliardi, ma a ben guardare, tolti i mancati aumenti di IVA e accise, il vero taglio è di 3 miliardi, pari a un modesto 0,2% del PIL. Ah, ma questa è la vera bolla cattiva. Che voce, ma perfida! Boeri come sta messo con la voce punto e sta criticando adesso? No, non lo so, però anche lui critica Renzi. Accidenti, stamattina ho visto. Questo è pesante. Voce perfida. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ma insomma, Salamino. Teatro sperimentale organolettico, cioè TSO, TSO per tutti, perché dimissioni che diventano riconfermazioni, si può dire? Diciamo. Sì, diciamo. Sentenze di decadenza che si trasformano in presenza di doppia presenza, si può dire? Diciamolo. Ex sindaci pronti a diventare trisindaci. Governatori in bilico sulla sospensione, insomma, camminano tutti sul filo per arrivare alla pensione ed è il TSO e perciò... Indietro! TSO per tutti, però non quello che volete intendere, bensì teatro sperimentale organolettico, ed è il Dramatis Persone, ve lo propongo immediatamente. Ignazio Marino, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, quest'ultimi costretti a recitare a soggetto in virtù della legge Severino, perché la Consulta rigetta il ricorso del sindaco di Napoli, però rischia anche il governatore della Campania De Luca. E il primo invece, il primo, quello che a noi piace tantissimo, chi è in fondo? Chi è in fondo Ignazio Marino? Ecco, qui ci soccorre, caro Giovanni, la grande drammaturgia, la grande letteratura. E siccome, diciamolo, la letteratura italiana coincide sempre con la letteratura siciliana, è qui Pirandello! Luigi Pirandello! Chi è lui? L'Enrico IV! Quando risi così di lui, dottore, fu anche per paura. Sì, paura. Perché forse alla promessa di quegli occhi si poteva credere, ma sarebbe stato pericolosissimo. Ecco, questo mi interesserebbe molto di sapere. Pericolosissimo? Ma appunto, perché lui non era come gli altri, capite? E siccome anch'io sono un po', come dire, ecco, insofferente, sì, è la parola giusta. Lui non era come gli altri, e questo suo TSO, questo teatro sperimentale organolettico, caro Giovanni, ha trovato il suo inno, la sua canzone, la sua colonna sonora, l'accompagnamento musicale, insomma, la banda già si presenta al Campidoglio, yeah. E così canta. Io sono balbuziente e non ci posso fare proprio niente. Se faccio un discorso sbaglio e dopo mi incaglio. Mi chiamano tutti strofinaccio, con le donne che e con le donne che cavolo di figlio. Senti Mario, c'è ancora una bolla, sì, veloce. Una bellissima canzone. Bella, sì, molto. Allora, questo è Tubular Bells di Mike Oldfield, un pezzo straordinario, ha segnato la storia della musica contemporanea. Se no non l'avresti scelto. No, senti, è bellissima. Beh, insomma, per dire cosa, perché Renzi ha cambiato idea. I Castelli pagheranno l'IMU. La cosa effettivamente aveva catturato i miei pensieri fin dal primo mattino, come puoi immaginare, no? E il PD ora è anche più di sinistra, infatti celebrano la vittoria quelli della minoranza, quindi tempi duri in tutto il paese per i proprietari dei Castelli Angioini, dei Castelli Aragonesi, dei Castelli Confossati, insomma, gli ha buttato un osso, dei Castelli Medicei, dei Castelli Federiciani, dei Mario, Castelli Normanni. Renzi gli ha buttato un osso. No, sai qual è la verità? È che dopo aver rottamato la dita, ora tocca alla gauche caviar che abita nei Castelli. Ah, hai capito. Io invece ho una buona notizia da dare, perché dobbiamo dare le good news, no? La buona notizia arriva da una ricerca del gruppo GEMS. Leggere fa bene e rende più felici. È il risultato appunto di una ricerca su 1100 persone fatta dall'Università di Roma, che dice in media i lettori abituali affrontano la vita in maniera più positiva e sanno godere del tempo libero in un modo più ricco. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Uccideremo tutti i maschi di questa razza infida, dal più vecchio ai bambini in fasce. La loro fine sarà un male anche per noi, perché gli armeni hanno il culto della carità. Antonio Aslan, questo film è tratto da un suo romanzo, La masseria delle allodole, dedicato allo sterminio degli armeni. Che cos'è per lei quel genocidio? È, diciamo, da un lato un ricordo infantile, il ricordo di quando mio nonno, che era già in Italia ma aveva avuto la sua famiglia sterminata proprio in uno dei centri delle deportazioni in Anatolia, me lo raccontò, mi raccontava queste cose. E poi dall'altra parte però è incerto quello che poi mi è riemerso sempre più forte nel corso degli anni, cioè il dovere della non solo della memoria, ma della memoria condivisa, ecco, cioè di farlo sapere. Ecco. Certo, pochi mesi fa, il 2 aprile del 2015, per la prima volta un Papa ha parlato del genocidio armeno. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Ecco, un silenzio lungo un secolo, poi queste parole che hanno provocato una dura reazione da parte del governo turco. Che emozione le hanno dato queste parole, dottoressa Arlan? Vede, emozione e più che altro sollievo, ecco. Emozione è dire poco, un sollievo enorme, perché finalmente, cioè, certo la Francia ne ha parlato, altri governi l'hanno riconosciuto, anche l'Unione Europea, però dalle parole del Papa è venuto una specie di sigillo sul ricordo e sul fatto che effettivamente questo milione e mezzo di morti, che erano poi tre quarti dell'intera minoranza armena nell'impero ottomano, in qualche modo sono ancora lì, esistono ancora, le loro tracce ci sono. Quindi parole importanti. Ecco, perché la comunità internazionale non è intervenuta per fermare il genocidio degli armeni prima e poi quello degli ebrei? Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Mix 24. Il canzoniere. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. chissà chi è l'attore. 800 24 00 24, numero verde. È come il cantante. 349 238 6666, l'SMS per favore, indovinate. Non è Gecko però l'attore. No, non è l'attore, gli assomiglia. Vai col tuo Gecko, Mario. Ecco, l'ultima bolla. Così impara. Io non creo niente, io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Il prezzo di uno spillo è anche il prezzo del petrolio. Lo abbiamo citato prima, anzi l'hai citato tu, Giovanni, con i nostri ascoltatori che ci scrivevano via SMS. Segnalo che è uscito adesso fresco fresco un report del Fondo Monetario Internazionale sullo stato dell'economia nei paesi del Golfo, molto preoccupante. Hanno perso oltre 350 miliardi di dollari di ricavi dall'export di petrolio. Sono tutti, insomma, messi abbastanza male con i conti pubblici, devono emettere debiti. Tutto questo, secondo il Fondo Monetario, aumenterà notevolmente tutta l'instabilità dell'area. Per cui tutti i ragionamenti che si stanno facendo, che abbiamo fatto adesso sulla Terza Guerra Mondiale, sul Medio Oriente, l'intervento di Tonini, intervista a Camporini e le cose dette da Caracciolo, in qualche maniera sono, no, il mosaico le cui tessere si stanno piano Fabio componendo. Fabio da Bologna ci scrive: ora non conviene a nessuno, ma probabilmente tra 50 anni sui libri di storia sarà considerata quella attuale come la Terza Guerra Mondiale. Beh, quindi insomma, diciamo, c'è davvero tanto interesse su quello che stiamo dicendo. E per finire, una canzone. Ha telefonato qualcuno? Questo è facile, eh? Ora, questo è facile, sì. Basta. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Adesso col professor Roberto Bernabei, visto che nessuno indovina, commentiamo le più importanti notizie di medicina che sono apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ, 2 ottobre 2015. Anziani accusati ingiustamente dell'aumento dei costi sanitari. Immagino che sia così per forza. Non è così, invece, perché come sapete ormai stiamo invecchiando, vecchia storia, ormai ne parliamo tanto, anche perché purtroppo io faccio il geriatra e quindi, come sapete, sono molto attaccato alle problematiche legate al tema. Qualche giorno fa un ricercatore danese ha sostenuto che è nato oggi il bambino che arriverà a 135 anni. Io credo che questo non sia vero. Perché? Perché ad oggi in Italia abbiamo 15.000 centenari, ma sapete quanti sono i super centenari, cioè quelli che sono arrivati a 110 anni? Quanti? Credo uno o due. Quindi io mi aspetterei che, se c'è questo veramente aumento della vita, se abbiamo 15.000 centenari, dovremmo avere perlomeno un centinaio di supercentenari. Se questo non è accaduto, vuol dire che la macchina riesce ad arrivare ai 100, ai 105, ma non di più. E allora è certo che fino ad oggi si è pensato che i grandi costi della sanità fossero imputati ai vecchi. Guardate, è vero fino ai 75 anni, ma dopo i costi diminuiscono. E allora qual è il challenge che abbiamo tutti quanti? Abbiamo il challenge di arrivare a questi 100 anni, ma preparandoci fin da giovani. È una storia di tutta la vita, non solo per i costi per la società, che, come ho detto, però dopo i 75 anni diminuiscono, ma per in generale non essere dipendenti. Essere dipendenti è il peggior insulto invecchiando. Allora bisogna fin da ragazzi prepararsi con le uniche armi che abbiamo, gli stili di vita. Quindi fate sport, muovetevi, abbiate una dieta e non soccombete ad alcol e a fumo. Se no, amici miei, la vecchiaia non è più un regalo, ma una vera malattia. E fa impressione sentir dire che dopo gli 85 anni i costi diminuiscono. Perché? Vede, il problema è che di fatto i costi a quell'età sono i costi dell'assistenza sociosanitaria, che sono costi, quelli dell'assistenza domiciliare, sono costi minimali rispetto a metterti 4 bypass oppure aprirti la scatola cranica. Cioè non ci sono più interventi. Ci sono molto meno interventi di quelli che pesano, perché dal punto di vista del costo. Esattamente. Elena da Napoli, forse abbiamo indovinato? Sì, Sì, sì, è nominato. Alla luna, non lo so, provi a dire. La luna di Leopardi. Giusto, brava, bravissima. Voglio dirle, Loli, che dica. Io l'ammiro tantissimo. Vi seguo ogni giorno. Buttafuoco. Grazie. Siete fantastici. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Viabilità.